Avventurieri, ogni perdita d'equilibrio vi costa punti salute. La prossima volta reagite con prontezza e toccate il lato opposto per correggere la postura. Non lasciate che il vento vi trascini nel vuoto.